Torno in diretta oggi, martedì 13 dicembre 2022. Sono le 13 da 7 minuti primi e ho il piacere di avere un ritorno di un grande personaggio, Paolo Renati. Ci sei, Paolo? Mi senti? Sì, buongiorno Marcello, un caro saluto a chi ci ascolta, grazie dell'invito. Bene, grazie a te Paolo, sei già stato qua, ma abbiamo sempre tantissimi, anzi sempre di più ascoltatori. Allora, tanto così per presentarmi, e tu correggimi poi se faccio degli errori, hai una laurea in ingegneria e scienza dei materiali, un dottorato in ricerca fisica dei sistemi complessi e sei anche specializzato, diciamo, in elettrodinamica quantistica nella materia vivente. Cioè, l'hai detto perfetto, meglio di così. Sai che quando ho letto elettrodinamica mi è venuto in mente un altro grande personaggio che era Emilio Del Giudice, che trattava l'argomento acqua, elettrodinamica in maniera. Tu l'hai conosciuto, Emilio Del Giudice? Cioè, è stato il mio maestro, nel senso che quello che ho fatto proprio perché ho studiato le sue cose e ho parlato con lui e mi ha insegnato un sacco di roba e quindi io ho cercato di portare avanti il testimone, diciamo così, fammela Bello, dire. bello, bello, non lo sapevo, io non l'ho conosciuto, ho visto solo una volta ho visto vari video, ho letto e poi una conferenza sua, ma proprio di una simpatia pazzesca, ma riusciva con le risatine, le battute a far entrare in argomenti no ostici di più, quindi purtroppo ci ha lasciato anche lui. Vabbè, mandiamo un pensiero a Emilio Del Giudice. Veniamo a Sì. noi, Paolo. Io ti ho disturbato appunto, visto anche la tua specialità accademica, insomma, i tuoi titoli. In giro c'è di tutto e di più per quanto riguarda questi, non so, chiamarli vaccini, sieri, farmaci, eccetera, e quello che contengono e quello che non contengono. So che tu te ne sei occupato, insomma, hai approfondito l'argomento, quindi puoi illuminarci meglio su di cosa stiamo parlando. Ma guarda, caro, sulla composizione di questi sieri è molto ovviamente è un po' come parlare certe volte sotto certi aspetti del sesso degli angeli, nel senso che non avendo la possibilità di analizzarli con sistematicità, almeno noi possiamo fare delle non abbiamo certezza di quello che c'è, però possiamo in realtà non possiamo sapere tutto quello che c'è, ma sappiamo con certezza alcune cose. E se vuoi io te le racconto un po', perché ho fatto un po' di ricerche e vorrei riportarti anche i risultati di persone, di scienziati anche in giro per il mondo che hanno fatto delle analisi su numeri cospicui di fiale. Non mi riferisco soltanto magari a Delgado e Campra della quinta colonna, ma anche a gruppi di ricerca più vasti, che se vuoi dopo ti accenno. Il problema, ovviamente, qui si tratta di capire che cosa c'è da un punto di vista, diciamo, come categoria di roba, cioè se c'è solo del materiale organico, se c'è anche dell'altro, oppure se addirittura, come sembra in certi casi, non esserci nemmeno del materiale, diciamo, dal punto di vista biologico, non organico, biologico, perdonami. Come sai, un tema grosso è il tema del grafene, quindi io se vuoi ti dico due o tre cosine che secondo me sono importanti da precisare oggi perché ho sentito dire delle cose che mi hanno fatto arricciare come fisico della materia. Si Quindi sente proprio tutto il contrario di tutto oggi, è veramente incredibile. Sei qua proprio per cercare di portare un attimo di luce con tutti i limiti del caso, ovviamente. Tu hai studiato bene anche il grafene come materiale. sì, allora vabbè, io non l'abbiamo detto, ma nel senso, per carità, ma qui non si tratta di andare per fogli di carta, non c'entra niente, però nel senso, un pochino di esperienza sulle nanotecnologie ce l'ho perché io ho un master europeo in nano e microtecnologie e diciamo che queste cose le conosco abbastanza bene. Allora, io ho sentito dire da Stefano Scoglio, che per carità è un amico, nel senso che io ho sempre condiviso tutto quello che ha sostenuto sul problema dell'isolamento, sull'inesistenza del contagio e sul fatto che quando si parla di spike virale probabilmente stanno parlando come dello sorriso dello stregatto, nel senso che se non c'è un gatto non so neanche se posso parlare di sorriso di qualcuno che non c'è o comunque dovrei parlare di tossine magari. Però sono rimasto estremamente sconcertato anche dal fatto che in qualche modo Stefano si è rifiutato di fare, cioè, un dialogo in qualche modo costruttivo dalle affermazioni che ha fatto dicendo che il grafene nei sieri non c'è, che potrebbe anche essere vero, perché non esiste. Allora, io posso dirti una cosa che non c'è e ti do dei motivi, ma se ti dico che non esiste, sto facendo forse qualcosa che non è preciso. Allora, se tu mi consenti, ti faccio velocemente una breve rassegna dei punti che sono stati sollevati da Stefano a detrazione dell'ipotesi di presenza del grafene nei sieri. Molto velocemente, dimmi tu se posso. Sì, vai. Allora, lui ha usato l'argomento, primo argomento, ha detto che lo stesso Elon Musk ha detto che il 90% delle nanotecnologie sono delle bullshit, cito testualmente. E in realtà io sono perfettamente d'accordo, questo non significa che non esistano le nanotecnologie e che non ci si possa fare qualcosa anche di pesante. Faccio la parentesi sul fatto che se tu vai a vedere pubblicazione, diciamo, nelle pubblicazioni scientifiche degli ultimi 15 anni, e tu fai una ricerca su quello che è con la parola chiave grafene e vedi in quanti articoli è connessa tra l'altro all'utilizzo suo in applicazioni biomedicali in senso generale, ti spaventi, cioè c'è un incremento esponenziale negli ultimi 10 anni, 15 anni delle pubblicazioni che si sono occupate di questa roba e quindi dei brevetti che sono stati depositati. Come diciamo per quanto riguarda la drug delivery, per quanto riguarda la possibilità di fare quello che già Cingolani, quando era presidente Sì. dell'IT, parlava ma di magneto faction, di utilizzo di interfacce tra il sistema biologico e eventualmente altri device elettronici o informatici all'esterno, cioè è tantissimo. Quindi faccio un po' una domanda provocatoria, dico: secondo voi abbiamo, come dire, una immensità di pubblicazioni scientifiche di gente che ha preso bandi, finanziamenti, che ha investito per qualcosa che non esiste. Allora, uno potrebbe dirmi sì, perché possono aver fatto la stessa cosa con i virus. Sì, ma attenzione, i casi sono molto diversi. Perché quando io devo manipolare dei nano device, devo poter fare qualcosa da un punto di vista proprio di implementazione, si dice in elettronica e in nanomeccanica, io in realtà devo star potendo guardare qualcosa, devo poterlo sintetizzare, creare, devo vedere se ha acquisito le proprietà che io voglio a seconda dei processi. Mentre nel caso dei virus, tutta la comunità scientifica si è mossa su degli assunti ipoteticamente dimostrati da una manciata di pubblicazioni che non arrivano a 10, che poi, come Stefano Lanca ha fatto vedere, non hanno dimostrato nulla per quanto riguarda l'isolamento, se parliamo di di aspetti di nanomateriali, è radicalmente diverso perché qualunque ricercatore si accorgerebbe subito se sta parlando di qualcosa che non esiste. Secondo punto, la questione quindi non è un argomento il fatto che il 90% delle nanotecnologie sono cavolate. Cita le ricerche di Delgado e Campra, che sono state le prime a, diciamo, paventare e tirar fuori questo problema, e dice: lo trovano solo in 7-8 fiale su 110. Figuriamoci allora se può essere un ritrovamento credibile. Allora, ma se il grafene in questi sieri è messo con un certo scopo, che poi magari discutiamo, ma secondo voi lo mettono in tutte le fiale, tale per cui quello che già stiamo facendo far fatica a far capire che sta accadendo a il gregge, stiamo facendo fatica a farlo capire adesso ed è già tanto, nel senso che la moria, le morti improvvise, le coagulazioni, le miocarditi, le trombosi, eccetera, eccetera, già sono tante. Se lo mettevano in tutte le fiale, rischiavamo di vedere veramente la gente cadeva per terra, per strada. E il piano andava all'aria perché la gente avrebbe mangiato la foglia. Quindi il fatto che sia solo su 7-8 fiale su 110 non è la dimostrazione che allora la presenza del grafene è un'idiozia, ma semmai il fatto che viene messo con un certo granus salis, ovviamente perverso e diabolico. Secondo, no, al massimo si può parlare di grafite, non di grafene. Allora, non c'è nessuna differenza da un punto di vista fondamentale, nel senso che è come dire, si può parlare al massimo di legno ma non di cellulosa. Il grafene, gli strati di grafene che sono strati di carbonio, ibridato SP2, quindi disposti su un piano, no, i carboni, sono semplicemente l'elemento strutturale che, sommato su tanti strati ed eventualmente anche messi disordinatamente, costituisce quella che è la comune grafite che possiamo avere nella nostra matita o in un elettrodo per fare elettrolisi, eccetera, eccetera. Nel diamante. Quindi la distinzione è assolutamente irrisoria. Non è che se io allora trovo che è grafite e che quindi questi pezzetti di roba che vanno dai pochi micron a a alcune decine di micron, solo di grafite, perché vedo che sono fatti da tanti strati di grafene e sono disordinati, allora tutti tranquilli, va tutto bene. Questo non è un argomento. E poi ripeto, facciamo una precisazione. La grafite è il bulk, cioè il materiale di massa, grezzo, base, da cui con certi procedimenti, tipicamente l'ossidazione, che permette di fare ossidazione degli strati di grafite, ottenere l'ossido di grafite, e che implica lo scollamento in qualche modo iniziale di questi strati, poi con questa ossidazione io posso passare ad avere man mano strati sempre più, come dire, famiglie di strati sempre più esigue, per poi arrivare a quello che è l'ossido di grafene, che non è altro che questo strato di carboni con degli ossigeni sulla superficie che creano gruppi funzionali più o meno idrofili, che poi verrà ridotto con un processo, quindi con delle sostanze riducenti, anche l'idrogeno, infatti c'è sempre un po' di idrogeno, a grafene pulito. Benissimo, quindi sono cercato di andare passo passo. Ultimi due termini che vengono detti essere qualcosa di assurdo: la bidimensionalità. Non esistono le cose bidimensionali, si dice, qualcuno dice. Ma allora, cerchiamo di essere precisi. In fisica dei materiali, bidimensionale è un aggettivo che ha un'accezione qualitativa, cioè io ti do in mano un foglio di carta, Marcello, e ti dico: vedi Marcello, questo è un oggetto bidimensionale, nel senso che hai una delle tre dimensioni che è molto ridotta rispetto alle altre due, no? E non è che vuol dire che non ha uno spessore, giusto? Sì. Se, tant'è che se tu sommi tanti fogli di carta fai una risma, e se te la do in testa ti faccio anche male, giusto? Ecco. Allora, la questione è questa. Bidimensionale, tra l'altro, ovviamente, si tratta di un foglio, di uno strato di atomi che come minimo quindi ha lo spessore di questi atomi. Ma tra l'altro, quando si legge che è un metallo bidimensionale, cosa vuol dire? Lo si deve dire meglio, perché sai che queste traduzioni vengono dall'inglese, quindi l'inglese è una lingua molto sintetica, non sta tanto a fare sofismi. In italiano dovremmo dire che è un metallo in 2D. Cosa vuol dire? Cioè che è un materiale che è molto molto conduttivo, cioè con elettroni, diciamoli adesso per adesso liberi, poi entriamo un attimo nel dettaglio, sul piano. Cioè praticamente non è che non esistono gli oggetti bidimensionali in senso assoluto, nel senso che se noi parliamo per esempio di interfacce, l'interfaccia non è una cosa che esiste di per sé, ma esiste in quanto ci sono due sistemi che sono congiunti su una superficie. Quindi quello però è un sistema, dal punto di vista fisico è un topos, nel senso greco, un luogo. Quando io per esempio faccio determinati stacks, degli strati, delle pile di strati di semiconduttori, opportunamente, che ne so, modificati e drogati, e ho degli, per esempio, gli portatori di carica come gli elettroni che sono disposti sull'interfaccia, in realtà questo strato è piccolissimo, è talmente sottile, perché avrebbe lo spessore di un elettrone, che è qualcosa di ben sotto al femtometro, quindi meno di 10 alla meno 15 metri. Sono di fatto i sistemi che sono quasi praticamente senza spessore, quindi non è una bestemmia metafisica dire che esistono sistemi bidimensionali. L'ultimo termine, massless. Qualcuno, in particolare Scoglio, ha detto: ma non può esistere una cosa bidimensionale che è senza massa. Calma, calma. Massless non è riferito al materiale di cui è costituito il grafene, cioè gli atomi di carbonio, che come anche i bambini di terza elementare sanno, hanno una massa, perché altrimenti ovviamente non potrebbe avere uno spessore, non potrebbe essere parte di un qualcosa che quando viene sommato l'uno sull'altra crea un oggetto macroscopico come per esempio la mina di una matita. Quindi non è riferito agli atomi, è riferito a una proprietà particolare che hanno gli elettroni sul piano del grafene. Si chiamano, allora diciamo che per chi non conosce la fisica dei materiali, dico due cose velocemente: quando io ho un sistema di portatori di carica come gli elettroni, che sono, come dire, abbastanza densi e condividono uno spazio in cui in qualche modo sono confinati, no? Hanno dei gradi di libertà limitati, essendo questi dei fermioni, cioè non potendo stare tutti nello stesso stato, si creano delle cosiddette bande di energia, cioè vari livelli energetici, quindi vari stati che i vari elettroni occupano eventualmente a coppie, perché possono avere uno spin su o uno spin giù. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono delle bande, cioè ci sono sostanzialmente delle famiglie, degli insiemi di stati energetici permessi su cui praticamente, che sono popolabili, diciamo, su cui possono disporsi gli elettroni. Ora, la particolarità del reticolo del grafene fa sì che si creino in quella che si chiama la zona di Brillouin, cioè praticamente in quello che è il sostanzialmente lo spazio in cui io descrivo le proprietà di trasporto degli elettroni di questo materiale, sostanzialmente fa sì che questi elettroni siano in certi punti, cosiddetti punti K, punti di Dirac, siano come se avessero massa nulla. Non l'hanno esattamente nulla, in realtà è molto piccola, ma è trascurabile, e hanno sostanzialmente una funzione dell'energia che descrive il loro moto, che è identica a quella delle particelle relativistiche senza massa, e quindi si parla appunto di fermioni di Dirac, cioè si parla di oggetti, gli elettroni, che essendo delocalizzati su tutto il piano, possono muoversi come se avessero zero attrito in qualche modo, si muovono alla cosiddetta velocità di Fermi, e infatti il grafene è un metallo, cioè è molto conduttivo sul piano, ma è un isolante se provo a far passare elettroni attraverso il piano. Quindi questo l'ho voluto dire, scusate se era un po' tecnica, per cominciare a far capire alle persone che si devono ascoltare i pareri di tutti, però questi ultimi devono poter parlare di cose quando ne hanno competenza. Se Scoglio parla di alghe, io sto zitto e lo ascolto, perché ha una competenza immensamente superiore alla mia. Però se qualcuno gli dice che guarda che stai prendendo una cantonata perché questa cosa l'hai tradotta male, questo concetto non lo conosci, eccetera, uno dovrebbe dire, ah davvero, spiegami, non avevo capito, fammi sapere, e così si va avanti a collaborare. Invece cosa succede adesso? Che ci saranno i debunker che hanno voluto sempre mettere in ridicolo la teoria del non isolamento, il fatto che non c'è il contagio, eccetera, si fregano le mani, perché una butad così incorretta, butteranno via bambini acqua sporca, e facciamo sempre ancora fatica quindi a far passare alle persone il vero tema della cosa. Qual è il vero tema della cosa? Due, secondo me, sono i temi della cosa. Questi sieri sono la vera pandemenza, la vera pandemia sono i sieri. L'altra è inventata, ok? Perché se andiamo a guardare i numeri, se andiamo a guardare le etichettature, tutta la storia dei tamponi, il problema del contagio, se voi dopo ne parliamo, eccetera, non regge nulla. Il secondo problema è quindi è dentro ai sieri, nel senso che questi sieri sono il vero problema, la vera pandemia, perché? Uno, perché sono sicuramente tossici. Due, perché forse non sono solo tossici, ma appunto, andiamo a parlare nel merito, hanno dentro qualcosa che non torna da un punto di vista di quello che dovrebbe contenere un siero. E se vuoi entro nel merito, ci sono delle ricerche molto corpose, e cito per prima quella della ricercatrice con due dottorati, uno in virologia e l'altro in microbiologia, Purin Mavag, che insieme ad altri 17 scienziati, che in totale per provenienza da 7 paesi, hanno analizzato 2.305 fiale, di sieri, ok? Prodotte da 12 marchi diversi. Se uno vuole sapere, ci sono dentro Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covishield, Soberana, Pasto Covac, CanSino e Zifivax. Tutte queste 12 marche sono state analizzate. Bene, cosa hanno trovato? Allora, composizione identica, come le hanno analizzate? Sia in microscopia ottica che al SEM, che in Raman Laser Spectroscopy. Che cos'è la Raman Laser Spectroscopy? È una microscopia ottica abbinata a una spettroscopia Raman, che permette di fare una risoluzione, diciamo, piuttosto precisa delle specie che ci sono, non tanto solo come fa il SEM da un punto di vista che elementi ci sono, ma che molecole, perché ti fa capire quali sono gli spettri di assorbimento a seconda del laser eccitatore che utilizzi, quindi di un atomo a seconda di come è legato ad altri, quindi capisci se c'è qualcosa che è un carbonio legato a un ossigeno, o se è un carbonio con un doppio legame, se c'è un gruppo amminico, se c'è un gruppo carbossilico, eccetera, eccetera. Ovviamente con delle differenze rispetto alla spettroscopia infrarossa, che adesso non sto a dire, ma che riguardano in qualche modo la centrosimmetria o meno delle molecole. Allora, vado velocemente, non hanno trovato una sola traccia di materiale biologico, come RNA, o subunità proteiche, o particelle, pezzi di virus o cose del genere. Hanno trovato soltanto coadiuvanti, tipicamente idrossido di alluminio, roba che non va bene, saccarosio, cloruro di sodio, acqua, solo delle nanomicelle, nanoparticelle lipidiche sintetiche, e quindi non dei fosfolipidi, come avrebbe una membrana cellulare, una vescicola normale, e degli idrogel fatti da trilioni e trilioni di nanoparticelle di ossido di grafene ridotto, incluse trilioni di nanoparticelle di contaminanti date da metalli pesanti, ok? E hanno visto che queste fiale hanno dei livelli di tossicità che sono distribuibili in una scala con 35 step, da bassamente leggermente tossico ad altamente tossiche. E nota, tutte con la stessa composizione, come se queste marche avessero distribuito fiale che sono state fatte tutti dallo stesso tizio. E io non mi stupisco, perché se noi andiamo a guardare quali sono gli azionisti di maggioranza di tutte queste aziende, ci Certo. troviamo dentro sempre le solite cose, le solite tre: BlackRock, Vanguard, State Street e la Banca di Norvegia, che non si capisce perché è ovunque. Allora, vai, vai, dimmi, dimmi, dimmi. No, no, stavo ridendo perché se si conferma, mi ero posto anch'io la domanda come la banca di Norvegia. Dopo di entrare male nella banca di Norvegia sarà controllata da BlackRock, Vanguard, eccetera. Quindi. Assolutamente, come tu sai, Vanguard ha come azionisti di maggioranza BlackRock e State Street. State Esatto. Street ha come azionisti di maggioranza le altre due e così via. Quindi praticamente, insomma, è come provare a dare un pugno a uno che quando glielo tiri apre un tunnel di Einstein Rosen e ti arriva in faccia a te. Ecco, diciamola così. Allora, l'altra cosa che è importante dire è che questa assenza di materiale organico, no, scusami, non organico, biologico, è stata trovata non soltanto da questo gruppo di ricercatori, che voglio dire sono 18, che vengono da 7 paesi, che hanno analizzato 2305 fiale, che voglio dire non sono due o tre, ma è stato trovato anche, io mi spiace che qui appunto abbiamo solo l'audio, se no farei vedere tutte le immagini di cui sto parlando, anche per esempio dalle analisi del dottor Daniel Nagase. Il dottor Daniel Nagase ha ricevuto delle fiale di Moderna e di Pfizer, che per carità lo dice, per carità assolutamente, sono state purtroppo magari in viaggio circa 2 mesi, e lui dice è un problema, nel senso che dicono che devono essere conservate a meno 80 o quello che è, e quindi conservarle fuori, chissà che cosa succede, magari è stata persa la parte biologica, per carità, però io allora mi chiedo, ma se questa roba deve stare a meno 80, quando la tirano fuori dal freezer e la iniettano in un braccio a 36 gradi, cosa succede? Sì, Vabbè. poi Lascio la domanda. hanno fatto poi le punture in piena estate al mare col gazebo, quindi a 40 gradi esterni, No, figuriamoci. ma tra l'altro, esatto, ma se poi è vero che io metti che abbia fatto tutto il protocollo giusto, se è vero che questa roba non si degrada soltanto se è a bassissima temperatura, ma dico, quando la metto dentro un corpo a 36 gradi o a 37, cioè voglio dire, che fine fa la roba che doveva essere mantenuta perché è instabile ad alta temperatura, giusto? È una Sì. domanda comprensibile, secondo me. Vabbè, ti dico semplicemente che nelle immagini di microscopia, questo caso SEM, quindi Scansion Electronic Microscope, no? Microscopio a scansione elettronica, per chi non lo sapesse, un campione che viene messo in un microscopio a scansione elettronica deve essere ovviamente disidratato, secco, e poi viene leggermente platinato, cioè rivestito di un sottilissimo strato di platino per evaporazione, per renderlo conduttivo, altrimenti quando io ci sparo sopra elettroni, dopo un po' diventa negativo e me li respinge, quindi io non vedo più una mazza, detta sostanzialmente. Allora, nelle immagini che sono abbastanza ghiaccianti di queste strutture, che sono, ma già come quelle che hanno fatto vedere Campra e Delgado, voglio dire, possiamo anche parlare del fatto che non sappiamo, non siamo certi che sia grafene, per carità, anzi, magari è qualcosa di molto più complesso, però questa roba con della geometria quadrata, dove ci sono dei pattern che sembrano ricordare quelli di un circuito, non ci deve stare là dentro. Beh, il dottor Daniel Nagase fa vedere questi oggetti, adesso si metteranno a ridere, bidimensionali, cioè nel senso fatti in modo lamellare, sottili, a strutture piuttosto spigolose che sembrano dei cristalli un po', no? Accresciuti lungo, diciamo, sul piano. Ha focalizzato il fascio di elettroni in certi punti per vedere la composizione. Il principio fisico con cui si fa della spettroscopia X è questo: io sparo degli elettroni sul materiale con una certa energia cinetica, hanno, diciamo, uno spettro di energie cinetiche, quindi, come dire, gli elettroni colpiscono di tutto, tipicamente colpendo gli elettroni degli orbitali di alcuni elementi e lasciando quindi liberi dei posti, fanno decadere dagli strati superiori a quelli sotto gli elettroni che sono già appunto nell'atomo, e questo salto discreto, questo decadimento discreto, ovviamente ha una taglia energetica molto precisa, tipicamente nel spettro X, che ti dice quali sono, quindi chi è quell'elemento. Beh, detta molto male. Allora, quello che ha trovato è 60% di picco di carbonio, 34% di ossigeno. E basta. Allora, che cos'è secondo te? Cioè, e c'è un picchetto di platino che riguarda ovviamente il fatto che l'hanno dovuto rivestire. Sì. Questo nei Moderna. In alcuni Pfizer ha trovato anche addirittura del tullio, dell'alluminio e un po' di silicio. Allora, la domanda che giustamente anche Nagase si fa è: ma dove sono il fosforo e l'azoto? Che se io avessi dell'mRNA, mRNA vuol dire acido ribonucleico, ci sono i gruppi fosfati. Se avessi delle micelle fosfolipidiche, ci sono i gruppi fosfati. Dov'è sta roba? Allora, non esiste un campione biologico che non abbia azoto e non abbia fosforo. Quindi in questi sieri, magari perché sono stati 2 mesi fuori, non lo so, non ci sono campioni biologici, non c'è materiale biologico. C'è solo materiale, diciamo, non so se correttamente poterlo dire inorganico, ma che risponde ai picchi carbonio-ossigeno, carbonio-ossigeno, carbonio-ossigeno, che ha la forma di cristallini piatti, e dove io posso sapere che c'è una letteratura immensa che sta parlando di device al grafene per fare cose. Cioè, non so, voglio dire, è un po' come se tu vai a casa di Cappuccetto Rosso, trovi la nonna che non c'è, il lupo con una pancia grossa come una mongolfiera, travestito da nonna, cioè, voglio dire, chissà cosa è successo, voglio dire, no? Te la dico così per farci un po' di ridere. Allora io voglio dire, chiudendo, non sappiamo con certezza che cosa c'è, per carità, magari c'è molto di peggio nel grafene, anche perché l'ingegneria dei nanomateriali è già passata da altro, tipo il borofene, che ha ancora altre caratteristiche, è ancora più resistente, ha delle proprietà ancora più esotiche e particolari. Però resta il fatto che qui dobbiamo fare tutti quanti una seria indagine su quello che c'è. Ora, altre analisi che invece ho visto di italiani hanno trovato invece del fosforo, hanno trovato delle tracce di materiale biologico. Che cosa possiamo concludere? Che non c'è affatto una composizione magari così certa, omogenea per tutti i sieri, forse indipendenza non tanto della marca ma dal lotto, e magari anche indipendenza da quanto vecchi sono i lotti. Potrebbe anche essere vero che la parte biologica viene degradata, non lo so, ma il problema è che resta qualcos'altro. Questo qualcos'altro dobbiamo capire che cos'è e non dire non c'è perché non esiste, perché se facciamo questo facciamo il gioco, che io posso anche capire, del bisogno di tanta gente che c'è di sentire delle buone notizie, perché siamo tutti sfiniti e io sono il primo a saperlo, siamo tutti sfiniti, siamo tutti in lotta da 1000 passagiorni, siamo stanchi, siamo preoccupati, le cose non si stanno secondo me mettendo bene perché l'agenda va avanti e quindi ogni volta che si dà una buona notizia, non importa se sia vero o meno, è tutta bella, acclamata, pronta, accolta, fa subito il giro delle 1000 bocche. Calma, qua dobbiamo sempre ragionare su quello che è misurabile, oggettivabile e certo, perché altrimenti prendiamo delle cantonate colossali. Ecco, io questo è quello che ci tenevo a dire su questo problema, perché se la gente comincia a pensare che non c'è niente di cui preoccuparsi sotto un certo aspetto, secondo me finiamo dalla padella alla brace. E assolutamente d'accordo con te, Paolo, anche di tutto questo discorso che hai fatto. Quello che ho capito è stato il tuo curriculum all'inizio, ma a parte questi scherzi, stanno arrivando a pioggia una marea di messaggi, di complimenti per la divulgazione. Ottimo il tuo ospite, accolto nel segno con riferimento alla percentuale di fiale che ha presentato, che presenta il grafene. Dennis, Carlo dice grazie Marcello, grazie a Paolo Renati per la divulgazione, attendo la replica. Bla bla bla, e poi ovviamente ti chiedono anche: ma detto questo, è possibile una cura per ripulire da questo schifo? Punto di domanda. Sì, allora il problema è molto semplice, e tra l'altro questo non fa altro che giustificare e far capire perché puntano a una vaccinazione di massa con regolarità nel tempo e tipicamente con dosi annuali o addirittura magari semestrali. Perché? Perché il corpo ha la naturale capacità di mettere in gioco degli enzimi tipo la mieloperossidasi che degradano queste sostanze. Allora, il grafene essenzialmente sono carboni. Allora, il nostro organismo ha gli strumenti per degradare questa roba. Chiaro, bisogna fare un bilancio sulle quantità. Se io sono imbottito di grafene o magari di qualcosa in cui anche è presente il grafene, e che però sembra, come io potrei far vedere in altri video che sono stati trovati, poi magari faremo insomma cercheremo di organizzare una situazione in cui potremo mostrare proprio live queste situazioni, queste cose che io ho raccolto. Sì. Voglio dire, se io c'è una certa quantità che supera una certa soglia, e se queste strutture sono in grado, come sembra in certi casi, magari stimolate da opportune frequenze elettromagnetiche, magari del 5G, ma figurati, sono un complottista, e che sono incapaci di fare della polimerizzazione e creare delle fibre, creare delle strutture che ovviamente compromettono il microcircolo e quant'altro, questo può essere un problema. Ma se le dosi sono contenute e io lascio il tempo al corpo di metabolizzare questa roba, io con la mieloperossidasi, che è un enzima già naturale, e anche, per carità, con tutte quelle giuste strategie di integratori e di tecniche di pulizia che vanno dalle alghe all'achelante, alle zeoliti, alla N-acetilacisteina e quello che vuoi, io ce la faccio a degradarla questa roba, però devo smetterla di fare il deficiente, ovviamente, cioè devo smetterla di infilarmi della merda nel corpo, scusa se lo dico in francese, perché sì. Non si può più andare avanti così, glielo stiamo dicendo in tutte le salse a sta gente qua, che cos'è che devono ancora capire? C'hanno anche della gente in casa che muore e poi dicono sarà stato il Covid, ma allora, cioè, dico, cioè, allora quanti neuroni hai? E di quelli lì quanti ne sono andati in ferie? Cioè, Assolutamente. Sei stato, guarda, chiarissimo, Paolo, per quanto riguarda. Ma l'ultima domanda, perché poi volevo che mi. Quanto abbiamo? Ancora 20 minuti massimo. E, il grafene, perché per le sue caratteristiche, hai detto, può essere conduttivo o addirittura isolante a seconda della direzione cristallina del moto direttore. Esatto, certo. Poi può essere considerato un tipo un superconduttore, cioè ha attrito. Per quale motivo il grafene adesso sta andando così alla grande? Proprio per queste proprio sue caratteristiche. Per due motivi, perché non è così complicato produrlo e, come ti dicevo, a partire dalla grafite, che può essere ossidata con tecniche molto semplici, e per creare ossido di grafite, che non è altro che sostanzialmente una grafite in cui insiemi di strati sono tenuti insieme coesi in modo più debole, posso poi man mano arrivare ai processi successivi, man mano questi strati renderli sempre più pochi e teoricamente da soli, disperdibili in acqua, e fare quindi il strato di ossido di grafene che facilmente posso ridurre e avere il grafene pulito, quindi la facilità con cui lo produco e le proprietà che ha, cioè questo affare qui è un materiale che ha proprietà non solo dal punto di vista di trasporto molto particolari, dal punto di vista elettrico, ma anche da un punto di vista di elettromeccanica. Io posso deformarlo, piegarlo, posso semplicemente con degli impulsi elettrici, con degli impulsi elettromagnetici. Fatti venire un paio di immagini in testa, quindi che cosa puoi fare dall'esterno, certo. No? Con certe onde. Può rispondere, se io faccio delle strutture che hanno per esempio possibilità di far andare gli elettroni in un moto circolare e quindi creare un momento magnetico, posso renderlo anche magnetoresponsivo. Capisci? Cioè, questo materiale è anni che stanno facendo queste cose, e ricordiamoci che quando le vediamo noi nel mondo civile, nel mondo militare, sì, queste cose le hanno già finite e superate. Quindi lo hanno usato tantissimo perché ha queste proprietà e perché è facile da gestire. Per chi pensa che le nanotecnologie siano soltanto una cavolata e basta, allora, che si fanno cavolate le nanotecnologie è vero, che siano una cavolata, cioè per dire non esistono, mi spiace ma non è così. Io posso fare... io che in università ho utilizzato il microscopio a forza atomica, il microscopio a tunneling, ho guardato proprio con le mie mani campioni di cui stavo risolvendo in altezza le rugosità a livello di qualche atomo. Allora tu puoi fare dei pattern, puoi fare delle cose, puoi evaporare per esempio per epitassi delle strutture che possono avere delle proprietà molto particolari proprio in base a come disponi i tuoi elementi. Il grafene in realtà è semplicissimo, perché basta avere un elemento solo, che è il carbonio, lo spalmi bello in uno strato, in qualche modo lo mandi in soluzione, lo scolli, lo tiri via, poi lo sottoponi a certe cose e lo deformi come vuoi, gli dai le proprietà che vuoi, quindi lo arrotolo lungo una certa direzione, faccio dei nanotubi di carbonio che hanno una certa proprietà e un certo diametro, lo arrotolo lungo un altro angolo, faccio dei nanotubi che hanno una proprietà completamente diversa, cioè tu ti rendi conto di quante cose puoi fare. Incredibile. Il carbonio è pazzesco, cioè io lo chiudo su se stesso e a prezzo di far saltare alcuni esagoni, farli diventare pentagoni e creo il fullerene. Lo lascio piatto e faccio il grafene, lo ossido un po' e faccio l'ossido di grafene, ci metto dei gruppi funzionali, gruppi carbossilici, ossidrili, altra roba, e glielo rendo, che ne so, più o meno idrofilo, più o meno idrofobo, eccetera eccetera, ne cambio, ne modulo la conducibilità a seconda di quanti elettroni sottraggo dalla banda di conduzione. Ma avete idea di quanta roba si può fare? Forse qui bisogna veramente avere un po' di umiltà, cioè le persone, come io non so una mazza di, che ne so, metabolismo delle alghe unicellulari, ne so poco, e quindi ascolto chi è più esperto, si prega ovviamente tutti quanti prima di parlare, e soprattutto quelli che hanno la responsabilità di fare divulgazione, prima informarsi bene e di consultarsi con altri colleghi, altrimenti qua giustamente il mainstream ci prende per i fondelli, dice che diciamo delle cavolate, e però poi ha ragione, e quindi non dobbiamo fare questo. E infatti sei qua, Paolo, proprio per fare corretta informazione. Grazie Marcello, grazie, no, grazie a te. Lascio la mia mail, che è facile, info@paolorenati.com.